Vendo tutto di Matteo Caccia. Fino ad oggi ho venduto un iPod, una Vespa, una videocamera, un avvitatore e poi una racchetta da tennis, delle catene da neve, una celatra barca, un quadro e una bottiglia. Ma è ancora poco, perché voglio vendere tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so. Succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una macchina fotografica. E oggi non è una puntata a caso, oggi non è una puntata qualunque. Oggi finalmente ci si libera delle cose. Io l'ho cominciato a fare un mese fa, ma oggi per una volta, non è che ci allarghiamo, lo concedo anche a voi. Sono le 16:08, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e questa mattina Alessandro Genovesi è arrivato qui in redazione con un bel pacco piena di roba. Per la corsa si è comprato le scarpette, la tutina, manca la fascetta quella per asciugare il sudore. Per quale motivo? Perché gli è partito il trip della corsa. Sono quei trip che partono una volta ogni tanto, no? Oggi lo dico perché la macchina fotografica che vendo oggi, tra le varie macchine fotografiche che ho comprato, fa parte proprio di quel genere lì. Quando ti parte il trip? Cioè, io avevo, quando è successo, credo 14 o 15 anni, ho capito che volevo diventare un fotografo, poi ci ho messo un po' di meno a capire che non lo sarei mai diventato, ma mi era partito quel trip lì e niente, ho comprato tutto, ero convinto che avrei fatto il fotografo nella mia vita. Ma non sono l'unico, perché su Facebook anche altri mi scrivono: Elisabetta, mi parte il trip spesso e volentieri, il più clamoroso, lavorare il vetro per mosaico. Ho comprato tutto, lame, tenaglie, mola, vetri di tutti i colori, stucchi di tutti i colori, ho fatto tavoli, vassoi, cornici e ora è tutto nel box, sotto lo scaffale più basso, margherita. A me succede tutti i giorni. I miei trip attuali sono il tedesco, il volontariato, le lezioni di piano, il corso di fitbox, l'anno scorso erano la danza, la chitarra e lo studio delle maschere a teatro. Maximilian mi scrive: io ho il trip della chitarra, mi è venuto anni fa, mi sono comprato una Fender Stratocaster, un amplificatore, l'effettiera, è tutto in un armadio da anni. Ancora Andrea: io volevo fare il DJ, ho comprato tutto e l'ho usato 2 volte e adesso ancora lo potrei vendere. Però, e qui veniamo ad oggi, perché poi mi scrive un messaggio Alessandra, sempre sulla pagina Facebook di Vendo Tutto, che è un'ottima idea secondo me. L'idea è questa qua: Alessandra dice che lei praticamente le era partito il trip per l'arrampicata, ha fatto 5 lezioni e poi praticamente le ha regalate all'istruttore del CAI. Ma perché regalarle quando le si possono vendere? Ecco che parte oggi e solo d'oggi l'operazione regala una seconda vita al tuo trip. Avete la casa, o meglio la casa, il garage ingombro di strumenti, di abbigliamento per uno sport, per una passione che vi è partita un giorno e poi dopo due giorni, 2 settimane, 2 mesi vi è passata. Mi chiamate all'800 24 0024 e io vi do la possibilità di raccontarmi come vi è partito il trip, ma soprattutto di liberarvene. Oppure 349 238 6666, ma vi ricordo invece il numero che è sempre meglio: 800 24 0024. Arriviamo invece alla storia del mio di trip, perché è la macchina fotografica, quella che mi sono comprato quando mi è partito questo trip. Se volete vederla, è bellissima. Radio24.it per sentire la sua storia, anche quella è bellissima, ed eccola qua. La macchina fotografica. Macchina fotografica a medio formato Honeywell Pentax 6x7 colore nero, con obiettivo 105 mm fuoco 2.4 e obiettivo 200 mm fuoco 4. Usata ma tenuta come una figlia, scatta con rulli in medio formato e produce fotografie con definizione non paragonabile a nessuna macchina fotografica in commercio. Ottima per chi vuole tenere in mano la macchina dei più grandi fotografi del mondo e fare fotografie che parlino al cuore. Valore commerciale 500 euro. Base d'asta Vendo Tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Quando mi parte il trip, cioè quando mi prende una passione, io sono totalizzante. Non ho mezze misure. Nel periodo in cui mi sono innamorato del Palio di Siena, ad esempio, sono andato a vivere vicino a Piazza del Campo, sono diventato contradaiolo dell'Oca e per un intero anno mi sono dedicato con tutto me stesso a portare male alla Torre, la nostra contrada nemica. Ho organizzato cene per raccogliere fondi, ho fatto dire messe, ho partecipato economicamente all'ingaggio del Fantino. È stato un anno molto intenso e l'Oca non ha vinto nessuna delle 2 gare estive, ma io mi sono sentito bene perché stavo facendo la cosa giusta. Sposare una causa per me vuol dire mettere tutto me stesso. E l'oggetto di oggi è la causa che sposai qualche anno fa, dopo aver rubato da un giornalaio in montagna una rivista che conteneva fotografie di animali. Sì, lo so, Ero giovane e stupido, quindi chiedo scusa ufficialmente all'edicolante adesso. Non era la rivista che volevo prendere, evidentemente, ma una volta accortomi che non si trattava di Leo Remese, me ne sono fatto una ragione e me la sono sfogliato ugualmente. Le immagini erano meravigliose, i dettagli erano curatissimi, i colori erano abbaglianti. Era la rivista del National Geographic. Ecco, fu lì che mi partì il neurone. Fu lì che decisi che sarei diventato fotografo, in qualsiasi modo. Così anni dopo, quando cominciai a guadagnare un po' di soldi, mi documentai e scoprii che il migliore apparecchio in circolazione per scattare foto era la Pentax 6x7. Le digitali erano sul mercato da poco, però, voglio dire, la reflex era reflex, no? Così feci qualche debito e andai a comprarla convinto che una volta diventato un fotografo avrei saldato tutto. E il bello è che ne ero convinto, cioè questo è il problema. Quando ti parte il trip, ti sembra che tutto sia possibile. E per certi versi è splendido. Un amico fotografo mi inviò in un bugigattolo in zona ticinese, dove trovai una Pentax 6x7 a prezzo abbordabile, anche per via del fatto che era stata di proprietà di un fotografo francese. Uno che si occupava di baci e che l'aveva venduta durante un suo soggiorno milanese all'inseguimento di una donna. Aveva scattato anni prima un'immagine che era diventata famosissima. Lo era diventata però dopo che il suo stampatore gliel'aveva soffiata, attribuendosene il merito. Lo stampatore da quel momento divenne un fotografo ricercatissimo, anche se mediocre. Il vero autore invece era come impazzito e decise che avrebbe cercato il modo di liberarsi della sua Pentax e poi cambiare lavoro e vita. Io non so come, ma mi innamorai di quella storia. La storia che mi raccontò il tizio del bugigattolo del ticinese, anche se in realtà mi sembrava una maniera per farmi strapagare una macchina usata. Io volevo credere alla potenza delle storie e pensai che forse attraverso quella macchina le capacità del maestro francese sarebbero passate non so come nelle mie mani. Quindi comprai il necessario per mettere in piedi uno studio fotografico in camera mia, gli acidi per stampare e pure la lampadina rossa. Fui inesorabile nell'acquistare tutto, perché vedete, non era uno scherzo, io stavo mettendo in piedi una professione, anzi quasi una missione. E poi arrivò Giulia. E lei, manco a dirlo, divenne il soggetto preferito dei miei scatti. Avevo bisogno di ricordarmi com'era. Avevo bisogno di immortalare la sua bellezza. E una Pentax 6x7 era proprio quello che ci voleva. Quando mi parte il trip non ho pace finché non raggiungo il risultato. E con la fotografia fu veramente un casino, perché non avevo voglia di studiare e con le reflex non ci si può improvvisare. Con le digitali è meglio, puoi fare 1000 scatti e prima o poi uno buono verrà fuori, no? Anche se sei una scimmia. Però Giulia non aveva nessuna intenzione di farsi riprendere da me, era pudica, era restia, come tutte le donne non si piaceva. Che era assurdo, ovviamente, perché era bellissima, ma tant'è, inutile parlarne. Anche se le mostrava una foto dove risultava oggettivamente bella, niente, le faceva comunque schifo. E non era facile. No, non era facile, poi io non demordevo. E dopo aver seguito qualche lezione, dopo aver letto un po' di riviste, mi comprai 10 rullini, i più costosi del mondo, naturalmente. E cominciai a scattare, a più non posso, metodicamente, per riuscire a riprenderla nei momenti in cui lei non se ne poteva accorgere. Sembravo un paparazzo nel tunnel dell'Alma. La Pentax fece il suo splendido lavoro e secondo me era per il fatto che forse era appartenuta a quel fotografo francese di cui non ricordo più il nome. È possibile che gli oggetti trattengano una memoria di come sono stati usati, no? La trattengano, poi la trasmettono al proprietario successivo. Ecco, a questo proposito sono un po' preoccupato per chi si è aggiudicato alcuni degli oggetti che ho messo in vendita, prima fra tutte la Vespa, che io non ho mai saputo veramente guidare. Cioè, non vorrei trasmettere il karma sbagliato. Ecco, per non parlare della racchetta da tennis, che se la mia teoria funziona, quella racchetta può rendere mediocre pure Federer. Tant'è. Comunque, le immagini che ho scattato con questa macchina sono splendide. E lo sono solo per merito del soggetto. Io mi ci sono applicato tanto, ma non posso negare che, mentre mi passava l'infatuazione per la fotografia, mi cresceva il desiderio di avere una macchinetta digitale, con cui fare scatti a caso, che prima o poi qualcuno bello ti viene fuori. La Pentax 6x7 che vendo oggi, una delle reflex più belle del mondo, appartenuta a un romantico artista francese e successivamente a me, è in vendita. Nonostante le immagini di baci, nonostante la storia che si porta dietro, anzi, forse proprio perché ha bisogno di qualcuno che le dia una nuova vita, che ci scriva la sua di storia, che fermi i suoi momenti felici. Avanti, compratela. Liberatemi di lei. Il suo valore commerciale sono 500 euro. La base d'asta, qua, sono 99 centesimi. Se anche voi però volete raccontarmi i vostri trip, quelli che vi sono partiti e in un attimo vi sono passati, 800240024. Petite blonde du boulevard brune, je t'allume et je te fume au coin du square, ma jolie blonde, le long du car, il est minuit, je te regarde, tu te consumes, le long du car de la police, où est-ce que tu vas, où est-ce que t'étais, je ne sais pas, on ne dit rien, petite blonde du boulevard brune, je t'allume et je te fume au coin du square, sous les pleins phares, je te confie mon amertume. E al 349-238-6666 arriva un messaggio. Mi sembra un messaggio divino. Le lezioni di arrampicata sono per me. Come posso farne uso? Le sfrutterei benissimo. Ricambierei con altro. Potete darmi il contatto? Guarda, è molto facile. Vai sulla pagina Facebook di Vendo Tutto, che è Matteo Caccia Vendo Tutto. Lì trovi i contatti della persona che ha quelle 5 lezioni sospese. Invece 800240024, sentiamo i trip di quelli che sono al telefono. Andiamo con Matteo dalla provincia di Pordenone. Pronto? Ciao Matteo. Ciao Matteo, come va? Tutto bene, tutto bravo. Sotto controllo. Bravo, quello, allora, quello è l'importante, Matteo, mi piace. Certo, raccontami il tuo trip, quando allora, ti è partito? Il mio trip è durato, è stato breve ma intenso, è durato un'estate, uh-huh. Riguarda una monopinna per nuoto pinnato. Cioè, la monopinna è quella roba che c'ha i piedi attaccati? Esatto, invece di avere due pinne, ne ha solo una, enorme, attaccata ai piedi. E serve per fare il nuoto pinnato? Nuoto pinnato, sì. Mi è nata perché mi ero stancato di andare su e giù in piscina nuotando normalmente. E ho detto, aspetta che guarda, sta tutto nel aspetta che aspetta. Adesso ti faccio il nuoto pinnato. Parolina. Sì, aspetta che senti, ma il nuoto pinnato dove si fa? Si può fare, io l'ho iniziato a fare in piscina. Sono durato tipo una settimana perché il fiato non ci stavo con il fiato. Vabbè, poi ho detto, ci provo in mare. Sarà più sinuoso, a contatto con i pesci. Certo. Altro che con i pesci, ho preso una bella medusa e ho lasciato perdere. Basta. Quindi ce l'hai lì nuova questa monopin? È lì nuova, sì, l'ho usata 7-8 volte. Ma quanto l'hai pagata? Bella domanda. L'ho pagata col trasporto, perché l'ho presa via internet, l'ho pagata sui 250 euro. Ammazza, cioè pura costa pure un occhio. Professionale l'ho presa, perché ero proprio partito lanciatissimo. Uh-huh. Ma serve qualcos'altro per il nuoto pinnato? No, il costume, gli occhialini immagino, basta. No, poi serve un boccaglio un po' particolare che viene su verticale davanti al naso, dalla bocca viene su davanti al naso, e ti permette di andare su e giù, anche un lavoro un po'... Cioè, ma è una roba che è simile al delfino senza le braccia? Esatto. Cioè, il delfino inteso come chiaramente come stile? Sì, sì, una coordinazione tra respirazione e anche battito di gambe, insomma. Bene, Matteo, mi sembra proprio un bel modo per cominciare, la monopin del nuoto pinnato. Se vuoi, guarda, vai sulla pagina Facebook e secondo me qualcuno che te la compra, che c'ha il trip del nuoto pinnato adesso, deve avere il tuo numero di scarpe, però lo trovi, secondo me. Grazie mille. Grazie a te. Ciao, Matteo, buona giornata. Alessandria, andiamo da Marco. Pronto? Pronto. Ciao, Marco. Ciao. Tu sei nella mia stessa condizione? Sei nella mia stessa condizione, mi sembra di capire. Sì, sì. Allora, però io l'ho fatta peggio. Cioè? E allora, circa nell'80-81, era venuto un grandissimo fotografo di moda in Italia, Avedon, a fare un servizio di moda, ha fatto delle foto pazzesche. Certo. Io vado a vedere con che macchina aveva fatto, e tutto l'aveva fatto con una macchina in Mogano, che faceva delle lastre 20x25 centimetri. Certo, parliamo però di Richard Avedon, giusto? Quindi sì, diciamo, esatto. Uno che un pochettino... ci sapeva sì. Fare, ok. Esatto, allora io senza, avrò fatto 10 fotografie in vita mia, vado a vedere questa macchina, cos'è tutto, allora non c'era internet, per cui riviste, chiama di qui, chiama di là, sì. Riesco a procurarmi una di queste macchine qua in America. Ok. Una cosa devastante, arriva questo affare qua, questo oggetto che pesava quintali, inizio ad usarlo e... effettivamente imparo sentendo anche professionisti. Ma quanto l'hai pagata, scusami? L'avevo pagata all'epoca 7 milioni. Ma, e tu cosa facevi di mestiere? Io facevo un'altra cosa completamente, proprio non c'entrava niente, facevo un rappresentante. Ok, senti, purtroppo non abbiamo tanto tempo, dimmi che fine ha fatto questa macchina. Allora, la macchina è ancora da me in garage. Ok, insieme alla macchina. Niente, lascia stare. Senti, se ti va di... non so quanto possa valere adesso questa macchina. Tu hai un'idea? Bah, strada, io penso che valga 3.000-4.000 euro comunque, perché comunque è una macchina da collezione. Guarda, fatti un giro su Facebook, secondo me qualcuno che c'ha il Trebigli, racconti la storia di Avedon, secondo me la fai su anche tu. Grazie mille, ciao Marco. Andiamo a Bari da Pasquale, pronto? Pronto. Ciao Pasquale. Vale. Ciao. Dimmi tutto. Allora, in pratica a me mi è nata la passione per quanto riguarda la pesca. Sì, tu cosa fai di lavoro, Pasquale? Partiamo dall'inizio. Io sono un imprenditore, un'azienda di ricami. Di, scusami? Ricamificio, ricami. Ah, ok, perfetto, ricamificio. E hai la passione per la pesca? Sì, vado alla traina, al dendice. Ok. Avevo un'attrezzatura, diciamo, manuale, artigianale. Sì, sì. Poi, informato... Guarda, ti perdo Pasquale, mi sa che o stai fermo se sei in macchina o ti fermi o altrimenti mi fermo, anche perché non vorrei fosse pericoloso. Quindi insomma tu hai la passione della pesca alla traina, sì. Quindi c'hai anche una barca. Ho anche una barca, sì, però l'obiettivo mio è quello di vendere un affondatore che è stato consigliato appunto per fare questo tipo di pesca al dendice. Sì. Anziché usare questo prodotto artigianale che avevo io, mi hanno consigliato questo affondatore che è di marca Canon. Ok. In pratica è... Sta cercando di piazzarla subito, Pasquale, grande. È un digitale, è elettrico, solo che l'avrò usato 3-4 volte, non di più, perché poi non ho preso un pesce, quindi in pratica... sono ritornato al vecchio manuale. Quanto l'hai pagato, Pasquale, questo affondatore? Ho pagato 2.500 euro. Perfetto. Adesso non so il valore. Perché diciamolo, i trip quando partono ti tirano fuori almeno 2-3.000 euro. Pasquale, senti, io ti devo salutare, però se fai un giro sulla nostra pagina Facebook, secondo me trovi pure chi ti compra l'affondatore. Ok? Sì, grazie. Grazie mille, ciao. Sono le 16:26, questo era Vendo Tutto. Io ringrazio tutti quelli che hanno chiamato, hanno scritto. Un ultimo messaggio al volo: Alessandro scrive, fate dei figli, così vi passano sti trip. E mi sembra un buon messaggio. Grazie a lui, grazie a Laura Faggina, a Tiziano Bonini, al Genovesi, a Stefano D'Andrea e a Pietro Super Trip La Corte. È una macchina splendida, la mia Pentax. Se potete andare a vederla sul sito radio24.it. L'oggetto di domani invece è completamente diverso: è un dizionario. È il dizionario che chiunque abbia fatto il liceo classico o quello scientifico ha avuto per le mani. Per anni. È il dizionario italiano-latino Castiglioni e Mariotti. Io intanto della mia macchina fotografica inizio da oggi a farne a meno, che anche quella, alla fine, è solo una macchina fotografica. Love, love, love, wherever...